9:03 minuti e questa mattina è venerdì 4 gennaio, un nuovo anno con Pensatech a 8 bit. Buon anno a Elisabetta Tola. Buon anno Damiana e buon anno anche agli ascoltatori e le ascoltatrici. E dall'altra parte del vetro buon anno anche a Marco Boscolo. Buongiorno, buon anno anche a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao a tutti quanti, noi appunto i primi giorni di gennaio non vi facciamo perdere il consueto appuntamento del venerdì con le nuove tecnologie e l'innovazione, e questa mattina vogliamo parlarvi di 3D. Forse non vi parleremo di Avatar, del magico mondo del cinema che ci fa viaggiare all'interno dell'immagine, o forse, per fare una citazione più recente, le immagini di Lo Hobbit. Ma andiamo a vedere invece come cercare di visualizzare in 3D quelli che sono i dati scientifici. Elisabetta, dico bene? Dici benissimo, non stiamo parlando del magico mondo dell'animazione, che effettivamente negli ultimi anni ci sta abituando a visioni molto diverse quando siamo davanti allo schermo, e invece stiamo parlando proprio dell'utilizzo degli strumenti di visualizzazione in 3D per poter, per esempio, ricostruire quello che, non so, era la città in passato e quelli che erano le proprio paesaggi urbani nei secoli scorsi, a partire dai dati storici, oppure della possibilità di rendere sempre in 3D alcuni dati scientifici, non so, la struttura dei pianeti, insomma molte applicazioni per una visualizzazione decisamente più potente di quelli che sono i risultati della ricerca scientifica stessa. Ma infatti anticipiamo un po' quello che sarà una delle interviste che vi faremo ascoltare questa mattina. Si tratta di uno studio in 3D proprio della città di Bologna. Bologna nel XIII secolo, in cui in mezzo alle rivalità tra le famiglie vennero costruite ben 100 torri. In realtà erano più che altro delle case torri, una città molto fortificata, e insomma viaggiare per questa città deve essere stato decisamente diverso rispetto alla Bologna che conosciamo noi. Il progetto Tower and Power ha cercato di ricostruirla, adesso il progetto è ancora in itinere, ma in realtà già la rete gli ha regalato un grande successo su YouTube, in quello che è il primo video di sperimentazione in cui già è possibile passeggiare per Piazza della Mercanzia un po' come vivevano nel XIII secolo. Ecco, pure, e quello lo faremo invece andando a parlare con Antonella Guidazzoli del Cineca, andare a vedere la Bologna nei vari secoli, ma anche la ricostruzione di singoli monumenti, oppure, come dicevo prima, la rappresentazione sempre in 3D di alcuni importanti masse di dati che sono il risultato della ricerca scientifica. Direi che possiamo dare i contatti, Damiana? Sì, infatti, magari chiediamo anche agli ascoltatori, infatti, se conoscono delle ricostruzioni in 3D, che cosa ne pensano, qual è stato l'impatto che hanno avuto, anche perché molto spesso siamo abituati, appunto citavamo il cinema, ma anche i videogiochi, a vedere delle ricostruzioni bellissime, sicuramente ad altissimo livello, a volte un po' edulcorate. Ecco, secondo voi quelle della ricerca scientifica in che direzione dovrebbero prendere? Dovrebbero assomigliare più a quelle ludiche per cercare di coinvolgere le persone, oppure volete una ricostruzione strettamente scientifica? I nostri contatti, l'SMS è il 348 7649 289, ma ci potete mandare una mail a diretta@radiocittadelcapo.it, e poi i nostri contatti anche sui social network. E allora ci potete scrivere sulla bacheca, sulla pagina di Radio Città del Capo, oppure mandarci un tweet citando pensatech con il CH. Infatti, io direi che ora potremmo immergerci un po' in un mondo di note e poi iniziamo la nostra chiacchierata sul 3D. Come al solito, un mondo di note un po' digitali. We'll be right back. Ed ecco quindi che prendiamo le mosse nel nostro discorso di questa mattina. Pensatech, ricordo ancora Damiana, scusa, i contatti, così vediamo di farci avviare una nuova comunicazione con i nostri ascoltatori. 348-7649-289 oppure diretta @radiocittadelcapo.it o ancora Twitter @pensatech col CH. Scriveteci, vogliamo un po' sapere quali sono le vostre esperienze col 3D e quali secondo voi le prospettive, i limiti di questa tecnologia. Do subito il buongiorno ad Antonella Guidazzoli, che è ingegnere, team leader della Computer Graphic Application del Cineca di Bologna. Buongiorno Antonella. Buongiorno. Allora, il Cineca sta lavorando da molto tempo in varie direzioni sulla visualizzazione in 3D, sia di risultati di vari progetti di ricerca scientifica che poi di veri e propri progetti di tipo culturale. Partiamo dai primi, Antonella Guidazzoli. Cosa vuol dire rappresentare in 3D e come lo fate, diciamo, i risultati della ricerca scientifica? Beh, il 3D offre davvero delle opportunità molto interessanti per la visualizzazione nell'ambito delle simulazioni scientifiche. Faccio l'esempio così ci chiariamo subito. Abbiamo fatto recentemente un progetto realizzando un filmato in 3D che ricostruisce il Big Bang. Questo l'abbiamo fatto utilizzando simulazioni che sono allo stato dell'arte per quanto riguarda la ricerca astrofisica, ma questi risultati li abbiamo in un certo senso colorati e proiettati in uno spazio tridimensionale per renderli comprensibili anche a un grande pubblico. L'idea di avere una dimensione in più aiuta in ambito scientifico perché ci consente di visualizzare più variabili e di rendere più semplice la rappresentazione di fenomeni complessi. Quindi diciamo che ci porta dentro il fenomeno stesso. Ci porta dentro il fenomeno stesso. Nel caso delle simulazioni, anche matematicamente, non avvengono in uno spazio, addirittura non avvengono in uno spazio solo tridimensionale o addirittura quadridimensionale, aggiungendo il tempo, ma spesso avvengono in più dimensioni. E quindi la possibilità di poterle visualizzare quantomeno in uno spazio tridimensionale aiuta la comprensione. Ecco, questo naturalmente potrebbe avere enormi applicazioni, penso al fatto che renderebbe visibili i risultati della ricerca scientifica non solo agli scienziati che ci lavorano, ma anche a un pubblico più ampio. Certo, sì. Però anche per gli stessi scienziati probabilmente è utile. Assolutamente sì, perché vale sempre il solito discorso che un'immagine vale più di mille parole, a volte un'immagine può sintetizzare mille numeri e quindi dare una visione, come dire, molto efficace e sintetica che consente ai ricercatori di vedere sinteticamente il risultato delle simulazioni, quindi di capire se la simulazione sta andando bene, sta andando male, avere un vero e proprio feedback visivo. Ecco, tu citavi prima l'importanza del numero anche delle dimensioni, qui a volte noi facciamo un po' confusione, quando parliamo di 3D parliamo un po' di tutto, in realtà le tecnologie sono un po' diverse, così? Sì, assolutamente. Dunque, per 3D solitamente si intende il fatto di ricostruire scenari che sono tridimensionali per definizione. Noi in sostanza viviamo in un mondo 3D, anzi come dicevo prima 4D, quantomeno spazio-temporale. Certo. Poi la rappresentazione che diamo di questo mondo può essere bidimensionale, quello che avviene per esempio nel cinema tradizionale, e possiamo anche rappresentare questo mondo utilizzando, come dicevo prima, una terza dimensione, quindi ricorrendo alle tecnologie stereo per dare spazio anche alla terza dimensione, oppure questo lo possiamo fare utilizzando i caschetti, quindi immergendoci proprio all'interno dello spazio tridimensionale. Questo apre sicuramente anche una nuova frontiera adesso che si aprirà per i giochi, ma io penso in futuro anche per applicazioni di tipo culturale o scientifico. Ci sono delle caratteristiche diverse che deve avere il 3D scientifico rispetto invece a quello ludico, quello del cinema oppure dei videogiochi? Assolutamente sì, nel caso delle visualizzazioni scientifiche rispettata la realtà della modellazione matematica, quindi io non posso, come dire, alterare i risultati scientifici, e se una galassia mi appare in un certo punto non posso farla apparire in un altro, per intenderci, nella simulazione. nell'ambito, forse è più semplice comprenderlo nell'ambito dell'archeologia virtuale. Io ho dei vincoli che sono dati dal rigore della ricostruzione, dal fatto che magari le fonti sono limitate, e quindi quando non so, anche graficamente nella terza dimensione, devo dare quest'idea a chi guarda la mia ricostruzione, per non dare delle informazioni sbagliate. Questo si può fare in archeologia virtuale usando per esempio delle trasparenze, rendendo evidente il fatto che magari per una certa parte di ricostruzione non ci sono informazioni sufficienti a dare un effetto realistico, per esempio. Quindi potrei, per esempio, vedere alcuni edifici di cui ho tutti i dettagli, di cui so mappa e ricostruite al meglio, e altre parti dare questa evidenza. Questo può aiutare lo sviluppo dello spirito critico. Un'altra frontiera è sicuramente quella dei modelli, di questo tipo di modelli 3D collegati poi alle fonti, in modo da illustrare a chi sta navigando all'interno di questi mondi come è stato possibile fare quella ricostruzione, e quindi rendere partecipe, diciamo, il fruitore della costruzione di quel mondo. C'è un'apertura da parte del mondo accademico su questi modelli, oppure c'è una certa diffidenza, anche perché insomma siamo in un periodo in cui non è facile trovare i fondi forse per queste sperimentazioni? Ma c'era una certa diffidenza. Comunque diciamo che la sfida anche che stiamo cercando di portare avanti in Cineca è proprio quello di riuscire a costruire delle pipeline, dei processi che consentano di partire dal lavoro degli storici archeologi e arrivare fino, lavorando con esperti di comunicazione, alla diffusione di questi modelli a un pubblico più vasto. Pensiamo adesso alla grande possibilità che abbiamo attraverso gli open data. Fra l'altro con il Comune di Bologna abbiamo cominciato e siamo a Bologna, il Comune di Bologna, per quanto ne so, il primo a rilasciare modelli 3D, in modo che i giovani ragazzi che cominciano ad utilizzare questi modelli, apro una parentesi, in questo momento tutti i ragazzi sanno usare tranquillamente, fare videomontaggio, e il video è diventato un media utilizzato ampiamente dai ragazzi anche per raccontarsi cose. Io credo che in futuro sarà possibile utilizzare questi modelli e riutilizzarli, riusarli per nuovi contenuti creativi. È importante che questi modelli, che sono il frutto di studi rigorosi, che spesso sono anche stati finanziati con fondi pubblici, vengano rimessi in circuito ad alimentare la creatività dei giovani. Visto che parliamo proprio di creatività e di giovani, la domanda che mi viene spontanea è: ma avete pensato mai di dare a disposizione questi modelli, queste ricostruzioni, per esempio della città di Bologna medievale, a un'eventuale casa di software interessata a fare un videogioco basato su una storia medievale bolognese? Ah, questo noi siamo assolutamente, per il momento credo che siano già disponibili questi modelli, quindi sono scaricabili. Come dicevo prima, la catena che abbiamo usato noi è rigorosamente open, quindi anche il software che abbiamo utilizzato è un software Blender di modellazione e di rendering, e ovviamente sono tutto ciò a disposizione per scopi. Qui c'è l'annoso problema eventualmente dei diritti, eccetera, certo. Però per scopi didattici con licenze commons noi li abbiamo assolutamente messi a disposizione di tutti. Mi piacerebbe molto collaborare con anche aziende di videogiochi per mettere a disposizione questo materiale, magari lavorando insieme anche a un comitato scientifico. Io ho ancora una domanda che invece va un po' più nel territorio di come questo tipo di modelli può aiutarci anche in termini di politiche di conservazione, per esempio, dei beni culturali. Voi avete fatto molto lavoro in questa direzione, Antonella. Sì, assolutamente. Dunque, politiche di conservazione, possiamo parlare dall'acquisizione, ecco. dall'acquisizione del... del vaso etrusco, della sitola etrusca con scansione laser, che ci consente di avere una vera e propria copia digitale dello stato del vaso, ha le ricostruzioni nel tempo e documentazione nel tempo di un'architettura, o come si diceva prima, della storia della città, che sono tutte informazioni che sono poi molto utili anche agli sviluppi della città nel futuro, no? La consapevolezza di quello che è stato è sicuramente, come dire, una buona base, certo, per costruire il futuro. Per la pianificazione, assolutamente. Dimmi. No, oggi consideriamo anche l'aspetto del 3D che nelle applicazioni di augmented reality, no? Quindi questa aggiunta di dimensioni oggi può avvenire anche attraverso le applicazioni di augmented reality, andando in giro per la città. Io potrei chiaramente vedere, georeferenziare, come si dice, questi modelli nel tempo e farli emergere. E quindi con enormi applicazioni anche per il turismo, esatto, nella fruizione della città stessa. Sì, infatti stiamo iniziando a lavorare a un progetto interessante per sottoporre all'UNESCO la candidatura di dei portici di Bologna come patrimonio dell'UNESCO, e l'idea è proprio di utilizzare queste tecnologie, ma facendo partecipare anche ovviamente i cittadini, gli studenti, e coinvolgendoli in questo lavoro di anche multimediale, di presentazione dei portici di Bologna come, diciamo, una sorta di vera e propria rete. Certo, che sono nei fatti, esatto, sono nei fatti e sono stati naturalmente nel corso dei secoli. Certo. E così hai risposto anche alla domanda che ti volevo fare, Antonella, cioè qual era un progetto su cui state lavorando, e questo mi sembra un bellissimo progetto, cui naturalmente invitiamo anche i nostri ascoltatori, insomma, a prendere parte, a seguire. Noi ringraziamo Antonella Guidazzoli, che è team leader della Computer Graphic Application del Cineca, ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro. Grazie. Buona giornata. Buona giornata anche a voi. E a questo punto vi facciamo un esempio di coloro che hanno preso questi dati, che già stanno realizzando una ricostruzione di Bologna del XIII secolo in 3D. Vi abbiamo accennato, già c'è un video di una piccola parte della città, quella che sta nei dintorni di Piazza della Mercanzia, ha avuto un buon successo in rete perché già ci sono 20.000 contatti. Ecco, loro stessi dicono di aver trovato la pepita e adesso stanno cercando la miniera d'oro, perché il progetto è ancora in itinere. Il progetto, che si chiama Tower Empower, lo trovate su www.towerempower.com ed è un progetto dello studio Sottolettore di Sasso Marconi. Ecco, sentiamo direttamente da uno degli autori, Massimo Silvia, quello che è stato la genesi di questo progetto e quali sono i prossimi passi. Ha circa un anno, ad oggi un anno e due mesi di vita, è nato direi a settembre dell'anno scorso, quindi 2011, al Festival della Storia. Abbiamo incontrato il professor Dondarini e gli abbiamo, insomma, così detto un nostro progetto, di un paio di persone appassionati di Bologna, di storia, insomma, di arte, eccetera, eccetera, che volevano fare qualcosa per aiutare, per aumentare, insomma, la diffusione, la divulgazione del prodotto, diciamo così, culturale Bologna, ovviamente sapendo che la nostra città non è che su questo brilli per innovazione, e soprattutto brilli per risultati, perché insomma rispetto alle nostre bellezze siamo notoriamente molto al di sotto, no? Come capacità di valorizzazione. Quindi volevamo lavorare in questa direzione, cioè di fare qualcosa che servisse a questo, e la tecnologia, il 3D, era uno strumento indispensabile, perché appunto permette di fare realizzazioni come belle, interessanti e quindi piacevoli, permette di aiutare a divulgare in maniera appunto divertente e si diffonde, insomma, in maniera virale. Poi oggi mandare una cosa a Imola, ma nello stesso tempo a New York. Non nascondo che l'indole così di export ce l'abbiamo, perché poi la piazza non è che così ricettiva, quindi vogliamo lavorare su Bologna, per Bologna, ma non nasconderci nessuna, come dire, spazio esterno, se capita, e appunto la tecnologia consente a costo praticamente zero di andare oggi ovunque, quindi questa era il punto di origine, di partenza. Quindi l'applicazione che voi immaginate è soprattutto per il cosiddetto marketing urbano, cioè per promuovere l'immagine della città. Esatto, tanto per dire, insomma, l'applicazione è ad oggi una mappa in 3D della Bologna medievale, per l'esattezza di una porzione, insomma, di circa un chilometro quadrato dalle due torri alla Basilica di Santo Stefano, tanto per metterla in chiaro, che è l'inizio, insomma, quindi sono comunque qualche migliaio di costruzioni fedelmente ricostruite grazie all'aiuto di studiosi, di nostri studi naturalmente, ma di studiosi, insomma, soprattutto Carlo De Angelis, che è una persona, insomma, molto nota in città per la sua conoscenza e capacità, che è stato il nostro, diciamo, responsabile scientifico. E questa mappa oggi è navigabile e uno la può percorrere, diciamo, come se fosse effettivamente 800 anni fa, quindi questo è l'impatto. E quindi un domani marketing urbano, nel senso che lo leggo alle mappe di Google di oggi, insomma, io sto navigando in cerca di monumenti o di ristoranti o di punti, diciamo, gastronomia, eccetera, e se voglio far vedere quello che c'era in quella strada, appunto, nel Medioevo, lo posso fare con applicazioni di realtà aumentata, marketing urbano, eccetera. E naturalmente l'altra collocazione principe è proprio quella museale in senso classico. Lo pensavamo e lo pensiamo come una fruizione il più possibile attiva e diciamo non museale polverosa, ma appunto tecnologico e avanzata, aperta e diciamo così dinamica. Ecco, questo è. Quali sono le direzioni per migliorare anche il vostro prodotto? Beh, guarda, adesso non ti nascondo che la fase è quella un po' della raccolta delle risorse, perché diciamo con l'autofinanziamento abbiamo prodotto appunto questo abstract, questo modello iniziale. Per andare avanti, che ovviamente vuol dire migliorare naturalmente, proseguire studi e garantire sempre un'altissima qualità e affidabilità storica e alle fonti di quello che si ricostruisce, però va anche ottimizzato dal punto di vista appunto tecnico, perché più gli oggetti, più le mappe si allargano, più il numero di oggetti sono grandi, sono numerosi e vanno quindi resi, perdonami il gioco di parole, il più leggeri possibile, perché altrimenti, diciamo, nemmeno un computer potente riuscirebbe a gestirseli, tantomeno un tablet, insomma, no? Quindi gli sviluppi sono migliorare tecnologicamente queste realizzazioni per poterle continuare a allargare quantitativamente, quindi adesso dobbiamo lavorare sia sulla qualità delle realizzazioni, che devono essere sempre, ripeto, carine, ma anche tecnologicamente più evolute, per poterle aggiungere e arrivare a una mappa ancora più estesa, Piazza Maggiore, insomma, non possiamo fare una mappa di Bologna che non ci sia tutto il centro storico, insomma, almeno la cerchia dei mille. Quindi questi sono i lavori. E ti dicevo, le ricerche, del finanziamento, naturalmente il momento è alquanto infelice sulla parte, come dire, le istituzioni, insomma, si sa che non possono certo in questo momento darci una mano. Devo dire che anche gli sponsor privati per adesso latitano abbastanza, anche questo era però abbastanza prevedibile, perché purtroppo, insomma, c'è sottovalutazione del valore di queste cose, di queste applicazioni, e adesso stiamo facendo un finanziamento con un crowdfunding, quindi stiamo per lanciare una campagna con Kickstarter, trovando ovviamente dei partner americani, perché Kickstarter è un fondo residente negli Stati Uniti, e quindi quella vocazione all'export che vi dicevo prima si sta realizzando anche nella ricerca delle risorse. E insomma, il tema della ricerca delle risorse, pensate che non è la prima volta che viene fuori, sicuramente è la costante. Torna e ritorna. 9:28 minuti, ormai il tempo a noi concesso è finito, almeno per oggi, ma ovviamente ci potete riascoltare scaricando la puntata su rcdc.it, e poi non mancate di farci avere i vostri messaggi anche su Twitter @pensatech con il CH. Una buona giornata a tutti, una buona giornata Elisabetta. Buona giornata a tutti, ci sentiamo venerdì prossimo. E anche a te Marco, e una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Buona giornata a tutti, ciao. Ciao.